essere e avere. Buongiorno da Marta Cagnola, ancora insieme per questa settimana in questo appuntamento con Essere Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. In piena settimana della moda parliamo di come possiamo conciliare la passione per il bello da indossare con i modi di consumo più sostenibile dal punto di vista economico ed ecologico. Anche nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo dei nuovi orientamenti in senso più verde, soprattutto nelle grandi catene straniere. Per il focus sui trend parliamo di social network e new media. Cosa hanno a che vedere coi consumi? Lo scopriremo nella seconda parte della trasmissione. Ma cominciamo subito con le notizie e curiosità della settimana. Si chiude oggi la 12ª Festa Nazionale del Riuso. In programma eventi, sfilate, corsi di ecologia pratica e laboratori creativi sul riutilizzo nei punti vendita della catena dell'usato Mercatino. Quasi 10.000 euro a famiglia. A tanto ammonta il peso del caro vita negli ultimi 8 anni secondo Casper, comitato contro le speculazioni e per il risparmio, di cui fanno parte ADOC, Codacons, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori, che denunciano una serie di rincari generalizzati e ingiustificati. Si terrà dal 1 al 3 ottobre a Gambettola, provincia di Forlì Cesena, Ortofabbrica, primo contest di design sostenibile. 3 giorni di seminari, workshop, concerti, laboratori e testimonianze su creatività, design sostenibile e innovazione. Vendite dirette a domicilio ancora a gonfie vele. Secondo i dati dell'associazione di settore Avedisco, il primo trimestre 2010 si è chiuso in crescita di quasi il 5% rispetto al 2009. Boom per i servizi, più 30%, e per il tessile, più 20%. Consolidano il trend alimentari, cosmetici e accessori. WWF, Consorzio Ecolight e IKEA, insieme per rispondere a una semplice domanda: dove si buttano le lampadine a risparmio energetico usate? Da ora si potranno portare in uno dei punti vendita IKEA, che le farà smaltire al consorzio Ecolight e che donerà un contributo al WWF, ma anche al consumatore un buono per l'acquisto di nuove lampadine. La borsa della spesa. Questa settimana parliamo di scambi, ad esempio di vestiti. Te lo dico io, Joe, cercano noi. Ci metteranno contro un muro e... troveranno 2 donne morte, ci porteranno all'obitorio femminile e quando ci spoglieranno io morirò dalla vergogna. Sta zitto e fa le valigie. Sì, sì, va bene, Joe. A quello no, idiota. Ma sono di Osgood, voleva che me li mettessi stasera. Non troverò mai più un uomo così gentile con me. Allora, dimentichiamo niente? Sì, pennello e rasoio. Ah, già. E c'è anche zucchero. Zucchero? Mi dia il 414. Sì, un momento, che stai facendo? Faccio una telefonata. Una telefonata? Ma chi ha tempo di telefonare? Non posso mollarla così senza neanche dirle addio. Ma è da quando? Tu in genere le molli lasciandogli i conti da pagare. Sì, ma quando ero un sassofonista. Adesso sono un milionario. Beh, ovviamente non parliamo esattamente di questo tipo di scambio di vestiti, perché in A qualcuno piace caldo, film del 1959 di Billy Wilder, Tony Curtis e Jack Lemmon prendevano i vestiti da donna e da miliardario senza che i legittimi proprietari ovviamente lo sapessero. Qui invece parliamo di un vero e proprio baratto. Nella settimana della moda, quando giornali e TV ci mostrano cose bellissime, vorremmo tutti avere qualcosa di nuovo e di bello. Beh, basta che sia bello e nuovo per noi, quindi via agli scambi. C'è ancora tempo oggi per partecipare alla grande festa del baratto glam a Milano, lo Urban Swap Party. Cosa succede? Ce ne parla Grazia Pallagrosi dell'Atelier del Riciclo. Quello spirito è quello di voler diffondere il senso del bello del vivere ecosostenibile, quindi vivere eco e adottare stili di vita ecosostenibili ci avvicina non solo all'etica e alle buone regole del vivere quotidiano, ma anche alla moda e al glamour della moda, per cui abbiamo organizzato questa manifestazione proprio per far passare questo messaggio. Quindi c'è sia la volontà, il desiderio comunque di seguire la moda perché è un piacere della vita, però sia risparmiando sia tutelando l'ambiente? Esatto, proprio questo, tutelando l'ambiente e tutelando se stessi, perché prendendo certi tipi di abitudini nell'ambito del vivere quotidiano sicuramente poi stiamo meglio anche noi in prima persona, oltre a far del bene al pianeta. E quindi rimanere comunque a contatto con i piaceri della vita in modo ecosostenibile, proprio come dicevamo prima, riciclare e scambiare avvicinandosi a un mondo che produce il bello sia nell'ambito della moda che nell'ambito del design, utilizzando anche lì materiali ecologici e materiali di recupero. Tra l'altro Atelier del Riciclo è anche un posto fisico a Milano, ma anche un'associazione e un marchio registrato con il quale identificate questo nuovo tipo di modello, diciamo, di negozio. Come mai questa scelta? La volontà, allora, noi siamo nati come associazione, abbiamo avuto molte richieste da parte, siccome questo modello che unisce la mission sociale a lo sviluppo di nuovi modelli di consumo che siano più intelligenti, ragionati e sostenibili per il pianeta, è stato molto apprezzato, abbiamo avuto diverse richieste di replicare questo modello e quindi è stata creata una società, invece è stato registrato un marchio. Manteniamo però tutti e due gli aspetti, sia quello sociale e associativo che quello invece di società, di azienda, proprio perché per noi la mission originaria rimane assolutamente viva, è uno degli scopi fondamentali che non verrà mai dimenticato neanche facendo business, è quello originario, cioè la diffusione degli stili di vita sostenibili attraverso tutta una serie di azioni che coinvolgono le persone in prima persona come attori e non solo come consumatori e come protagonisti del miglioramento della propria esistenza verso un benessere che coinvolga le persone individualmente, collettivamente e sul pianeta, cioè contestualizzandole in un periodo storico in cui c'è richiesta per forza a tutti un cambio di uno sforzo, diciamo, per vivere in modo meno, per alleggerire la nostra impronta ecologica. Parlando proprio di questo sforzo per alleggerire la nostra impronta ecologica, andiamo a sentire anche cosa si stanno inventando di nuovo in questo senso le grandi catene di distribuzione, soprattutto all'estero. Il direttore di Markup, Luigi Rubinelli. Sono molte le catene della grande distribuzione che stanno sviluppando i prodotti sugli scaffali di vendita a cavallo fra biologico e prodotti sostenibili tout court. Negli Stati Uniti un prodotto alimentare, prima di arrivare sulla tavola del consumatore, percorre in media 1500 miglia. La britannica Tesco indica sulle etichette negli Stati Uniti il costo in CO2 prodotto. Questo dato potrà essere comparato come si fa per il prezzo o per le caratteristiche nutrizionali con i concorrenti. Corruit, un retailer belga, è uno dei rari discount in Europa a trattare prodotti bio. L'insegna ha sperimentato quindi la vendita del bio allo stesso prezzo del convenzionale. Naturalmente ciò, pur traducendosi in una bassa remunerazione sia dei produttori sia del distributore, consente di esaudire il reale interesse dei consumatori verso i prodotti biologici. Coop Denmark ha annunciato un nuovo progetto legato alla social responsibility aziendale. Il piano si concentra sui fornitori, prevedendo che essi intraprendano iniziative per la riduzione delle emissioni di CO2 entro i prossimi 3 anni. Negli Stati Uniti i punti di vendita di Urban Rustic propongono prodotti provenienti da zone ubicate entro 140 km di distanza dal punto di vendita stesso. Sono 4 esempi che orienteranno nei rispettivi paesi le scelte delle aziende, ma che incideranno anche sui comportamenti di consumo. Speriamo che lo stesso succeda anche in Italia. Essere e avere. Nella seconda parte di Essere Avere, il focus sui trend, dedicato come sempre all'analisi delle nuove tendenze in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello, consulente, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Buongiorno Patrizia. Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di social media e consumi. Vogliamo cioè capire quanto il nuovo sistema di relazione e comunicazione introdotto dai social network stia influenzando il mondo dei prodotti e dei servizi, della pubblicità e del marketing, passando anche attraverso cinema e arte. Patrizia. Sì, lo sta certamente influenzando molto questo mondo. I social media e i social network in particolare hanno ridisegnato, in effetti, mutandolo profondamente, il mondo dei prodotti e dei servizi, a partire dal modo e dai canali attraverso cui questi prodotti e servizi arrivano al mercato, cioè il marketing e la comunicazione pubblicitaria, ma anche la distribuzione, fino a cambiare il rapporto tra aziende e consumatori, cambiando anche le dinamiche tra offerta e domanda. Anche per la pubblicità è l'ora dei social network, titolava un recente articolo sul tema advertising e new media che mi è capitato di leggere. Perché è l'ora? Ma perché ci sono 25 milioni di italiani, il 48% della popolazione, che navigano in rete, quasi 20 milioni di utenti internet sono fruitori di social media, con una crescita del 17% in un anno secondo i dati di Agis Media, e perché grazie alla banda larga diffusa e anche grazie alla crisi economica il processo di trasformazione dell'intero sistema dei media ha subito una grande accelerazione, con conseguente apertura a nuove forme di comunicazione e di marketing meno costose e più efficaci delle tradizionali. Ci sono quindi le condizioni e le opportunità per le aziende di comunicare il proprio brand, i propri prodotti in chiave integrata, quindi usando vecchi e nuovi media e ridefinendo le modalità di contatto e di relazione con i consumatori. Un esempio interessante tra queste nuove forme è il social advertising, cioè le piattaforme social network che consentono alle aziende di usare la creatività dei consumatori singoli o comunità per creare concept, fare spot. Dunque il consumatore mette le idee, le carica online e tra l'altro se si vince si viene anche pagati. Dunque questo è un esempio per dire che il consumatore è già passato da passivo buyer target di un'offerta predefinita a snodo di relazioni e a co-creatore dell'offerta. Le aziende stanno passando, dovranno sempre più fare questo passaggio, dall'interazione tradizionale offline con il consumatore a nuove modalità di collaborazione online. Abbiamo parlato già in varie occasioni, anche nella scorsa stagione, di crowdsourcing, di prosumer, di co-creazione di prodotti e di valore. Dunque questa nuova forma di collaborazione aziende-consumatori è un cambiamento irreversibile che ha già interessato molti marchi. Abbiamo fatto molti esempi, da Nokia a Lego, che ha fatto sviluppare i propri prodotti alle comunità di fan, ma anche Ducati, Peugeot e Swarovski per quanto riguarda il design proprio dei prodotti, e moltissimi marchi che usano le comunità di fan per nuovi concept e idee proprio per la comunicazione. Anche la distribuzione e il retail sono fortemente influenzati naturalmente dai social network. Il cosiddetto social shopping è un fenomeno molto interessante perché evidenzia la portata della comunità di riferimento, proprio in termini di influenza, anche nei processi di acquisto. In alcuni negozi si possono fare acquisti collettivi, che non vuol dire di gruppo, ma vuol dire che dal camerino in cui sto provando un vestito mi collego al mio social network, invio le foto delle varie mise che mi sto provando, leggo i feedback degli amici, sostenitori e detrattori e faccio un acquisto condiviso. E passando all'online, quindi dal camerino all'acquisto che faccio in un sito e-commerce, sono molti i siti dotati, come per esempio Yoox, del servizio di Dreambox, che ci permettono in fase di scelta, proprio in fase di processo decisionale, di condividere gli oggetti del desiderio. Invece, contro lo shopping e a favore del risparmio, abbiamo il social network educativo dissuasivo PiggyMojo. Ci si iscrive dichiarando quanto si vuole risparmiare nel periodo definito, si sceglie un'icona simbolo dell'obiettivo da perseguire, c'è una sezione di fan con cui condividere le tentazioni a cui non si è ceduto. Quindi funziona così: vedo un paio di scarpe che in quel momento sono quelle della mia vita e che però non prendo, messaggio a PiggyMojo descrivendo l'oggetto, il marchio, il prezzo dell'acquisto potenziale che non ho fatto, se voglio faccio anche un post con la cronaca della tormentata ma trionfale decisione di resistere, settimanalmente il sito mi segnala quanto mi sto avvicinando all'obiettivo del risparmio stabilito, quindi un modo divertente, di nuovo condiviso per non indebitarsi, rinforzare un comportamento positivo, educare anche all'acquisto responsabile e non compulsivo, quindi con la pressione sociale del mio gruppo che mi aiuta a ridurre il debito. E anche il cinema però ha ovviamente drizzato le antenne sul fenomeno social network. Di questo fine settimana l'anteprima al New York Film Festival di The Social Network, il film di David Fincher dedicato a Facebook e alla storia del fondatore Mark Zuckerberg. Il film uscirà in Italia a novembre. Da noi invece la scorsa stagione è uscito Faceboom, 8 episodi e 5 corti ispirati proprio al mondo di Facebook e dei social network. Ciao australiano, ma lo sai che ti chiami come una bellissima villa di Roma? E che non lo so. Cosa posso dire alla gente? Qualcosa di strano, qualcosa di divertente. Voglio creare lo status più intelligente. Non scrivo niente. Italiana, tu. Ti posso dire tante cose che ti piaceranno in italiano. Dimmi, dimmi, dimmi tu invece che lavoro fai, che puoi permetterti di stare a cercare tutte queste ore. Come va a Busto Arsizio? In questo trailer, lo si capiva anche dal solo audio, in molti fingevano di essere dove non sono. C'era chi si fingeva straniero, in pratica per, diciamolo, per broccolare, ma ormai, Patrizia, i social network tendono sempre più anche a tracciarci fisicamente, a dire a tutti, se lo vogliamo, dove siamo in ogni momento. Non a caso il social network più cool del momento, Foursquare, a proposito di mappe geografiche digitali che ci geotaggano e diventano così il territorio spazio-temporale delle nostre giornate che possiamo comunicare a chi vogliamo, serve appunto a dire dove siamo in qualsiasi momento. Ma non c'è solo la versione al presente, ma come il caso di Plancast, altro social network che va per la maggiore, qui il tempo è futuro, quindi in questo caso possiamo segnalare dove saremo, in quali luoghi, quali negozi, quali aeroporti, quali autostrade, quali eventi, quindi sapendo in anticipo chi troveremo, per esempio a una festa, ma anche influenzando con la nostra dichiarazione di presenza altri check-in. Venendo ai consumi culturali, come anticipato nella puntata scorsa, una piccola grande rivoluzione pare sarà nel mondo del broadcasting, della televisione, della fruizione dei contenuti da palinsesto generati dagli utenti. Miso TV, l'application social network di condivisione di audiovisivi in tempo reale, che serve per comunicare chi sta guardando cosa e per condividere quei contenuti con altri. La vera novità nel panorama new mediale è la voce. La voce che torna a fare capolino nel mondo delle conversazioni digitali fatte di soli testi scritti, quindi si era un po' persa tra SMS, chat, bacheche, post e tweet. E invece nuove applicazioni e nuovi social network riportano il rumore della voce umana in primo piano, quindi ci consentiranno di parlare con gli altri. È il caso di Google Voice, la risposta di Google a Skype, è il caso di Audioboo, piattaforma mobile e web, che ci ricorda anche nel claim quanto il suono, la vocalità sia social. Gli user possono registrare, caricare e postare degli audio tweets. SMS, quindi brevi messaggi vocali al posto della stringa da 140 caratteri. Ancora shoutomatic.com, che recita Stop typing, start shouting. Possiamo dunque esprimere il nostro status con la voce, l'intonazione, l'emozione che scegliamo per comunicare. Shoutomatic è pensato per salutare la mamma quando si è lontani, per una pop star che può anticipare la strofa di una canzone e altri usi che vedremo, come sempre, appena il servizio prende piede. Intanto sembra un indicatore interessante nell'evoluzione della rete, dei new media, proprio perché il nostro corpo era già molto disseminato in termini identitari e adesso si innesta e circola in rete un pezzo del nostro corpo, la nostra voce. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a New York su social media e dintorni? Ce lo racconta anche quest'anno la nostra Urban Watcher Alessia Zampano, ricercatrice e analista di tendenze. Bentornata Alessia. Grazie, un saluto a tutti e ben ritrovati. So che potrebbe sembrare una contraddizione, ma se il social network diventasse local, Stacked.biz, STACKD per chi volesse cercarlo, nasce proprio con questo scopo. Questo atipico social network, infatti, prende spunto da una semplice constatazione, che probabilmente per implementare il proprio business e il proprio network di conoscenze è potenzialmente più interessante che incontriamo ogni giorno in ascensore piuttosto che su Facebook. Certo, il valore dei social network che ci collegano virtualmente con le persone dall'altro capo del mondo rimane, è pur vero che a volte un nuovo cliente o una nuova opportunità di lavoro sono più vicini di quanto pensiamo. Quindi cosa fa Stacked? Nient'altro che connettere le persone che lavorano in uno stesso edificio, principalmente a fini lavorativi ma anche no. Le ragioni per connettersi infatti possono essere tante, dalla condivisione di spazi che rimangono inutilizzati per gran parte del tempo, allo scoprire ad esempio che il prodotto o servizio che vendiamo potrebbe avere un potenziale acquirente sul nostro stesso pianerottolo. L'idea ha preso corpo ed è stata sviluppata dalla Supermetric, un'agenzia appunto di New York di comunicazione strategica, che tra l'altro ne sta già mettendo a punto la versione aggiornata, ancora più immediata e semplice da usare. E intanto palazzi per così dire interconnessi cominciano a spuntare non solo in tutti gli Stati Uniti, ma anche in giro per il mondo, da San Paolo a Copenaghen e a Milano. Grazie Alessia. In conclusione Patrizia, ormai abbiamo tutti quasi una doppia dimensione. Sì, è così. Le esperienze che facciamo online sono continuamente intrecciate a quelle che facciamo offline. Online e offline sono due termini che preferisco a virtuale e reale, perché comunque è tutto reale. Semplicemente l'online e l'offline sono due dimensioni diverse, oltre che inestricabili, della nostra vita. Con Patrizia Martello ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie Patrizia. Grazie a tutti. E concludiamo questa trasmissione ricordandovi che potete riascoltare questa e le altre puntate con il nostro podcast al sito radio24.it. Grazie in regia a Peter Bescapè e a Filippo Aureggi, da Marta Cagnola, ancora in vostra compagnia, attendendo prestissimo il ritorno di Maria Luisa Pezzali, l'appuntamento alla prossima settimana.